un quotidiano di grande valore nazionale che decide di dedicare 22 pagine al nostro territorio, confermando l'importanza del nostro territorio come motore dell'economia del paese e quindi dando attenzione a quello che avviene dal punto di vista economico sul nostro territorio. Anche per i futuri progetti come per l'Expo 2015, che le è tanto caro. Ma per tutti i progetti, perché il territorio lombardo è un territorio che appunto è il motore del paese, quindi non è un unico progetto quello importante, sono tutti progetti che si sviluppano qui e che sono trainanti per il paese.